Noh. Noé. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. In verità inviammo Noè al suo popolo. Avverti il tuo popolo prima che giunga loro un doloroso castigo. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Disse, o popolo mio, in verità io sono per voi un ammonitore evidente. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Adorate Allah, temetelo e obbeditemi. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. Lau kuntum ta'lamun. Affinché perdoni una parte dei vostri peccati e vi conceda dilazione fino a un termine stabilito. Ma quando giungerà il termine di Allah, non potrà essere rimandato. Se solo lo sapeste. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Disse, Signore, ho chiamato il mio popolo giorno e notte. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Ma il mio richiamo ha solo accresciuto la loro repulsione. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ogni volta che li chiamavo affinché tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si avvolgevano nelle loro vesti, pervicaci e tronfi di superbia. Thumma inni da'autuhum jihara. Poi li ho chiamati ad alta voce. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Li ho arringati e ho parlato loro in segreto. Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dicendo, implorate il perdono del vostro Signore. Egli è colui che molto perdona. Yursili s-samaa 'alaykum midrara. Affinché vi invii dal cielo una pioggia abbondante. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Accresca i vostri beni e i vostri figli e vi conceda giardini e ruscelli. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Perché non confidate nella magnanimità di Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Quando è lui che vi ha creati in fasi successive? أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Non avete considerato come Allah ha creato sette cieli sovrapposti? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. E della luna ha fatto una luce e del sole un luminare. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. È Allah che vi ha fatto sorgere dalla terra come piante. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Poi vi rimanderà ad essa e vi farà risorgere. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. Allah ha fatto della terra un tappeto per voi. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Affinché possiate viaggiare su spaziose vie. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Disse Noè: Signore, mi hanno disobbedito seguendo coloro i cui beni e figli non fanno che aumentarne la rovina. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Hanno tramato un'enorme trama. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. E hanno detto: Non abbandonate i vostri dei, non abbandonate né Wad, né Sua, né Yahut, né Yahuk, né Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Essi ne hanno traviati molti. Signore, non accrescere gli ingiusti altro che nella perdizione. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. A causa dei loro peccati sono stati affogati e poi introdotti nel fuoco, e non trovarono nessun soccorritore all'infuori di Allah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Pregò Noè: Signore, non lasciare sulla terra alcun abitante che sia miscredente. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Se li risparmierai, travieranno i tuoi servi e non genereranno altro che perversi ingrati. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Signore, perdona a me, ai miei genitori, a chi entra nella mia casa come credente, ai credenti e alle credenti. Non accrescere gli ingiusti, altro che nella rovina.